noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Siamo fatti condizionare pesantemente dalle notizie che arrivavano dall'Ucraina, ma questo è un errore secondo me. A livello di mentalità, a livello mentale era un allenamento stupendo riuscire a giocare lo stesso con la difficoltà dell'altro risultato, e che chiaramente rendeva la nostra partita praticamente inutile. Non ce l'abbiamo fatta, quindi vuol dire mentalmente dobbiamo lavorare ancora, dobbiamo crescere sotto certi punti di vista. Siamo in un momento che oggi è anche contro Udinese, che non abbiamo dimostrato il nostro meglio giocato. È una squadra sempre in un anno si trova un momento un po' più difficile, e questo è il nostro momento adesso, e vogliamo ritornare più veloce al nostro livello. Non penserei in questo momento all'Europa League, che verrà fra due mesi e mezzo, tre, quindi vediamo. Sicuramente è una manifestazione che noi dobbiamo fare con grande determinazione. Non è che una squadra a livello europeo non ha una grandissima storia e grandi trofei in bacheca, può andare a fare un'Europa League per non onorarla fino in fondo. No, ma proviamo a tirarci sul morale, quantomeno con la base musicale di Gianmarco Ferronato, il nostro regista, che saluto insieme a Giorgio Druca, il nostro autore, perché il fondo, cioè le voci di Sarri e Mertens, sono profondamente tristi. Non mi aspettavo niente, ve l'ho detto ieri, ve l'ho detto nei giorni precedenti, Pardo pensava al contrario, sta arrivando peraltro qui in studio, era molto ottimista, io lo ero zero. Il City ha fatto il suo dovere, ha perso in Ucraina, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Mi aspettavo invece che Napoli vincesse in Olanda contro una delle peggiori squadre, forse la peggiore che ho visto, poi si può spulciare altro, in questa Champions League. Ciao Marco Beninazzo. Eccomi, buon pomeriggio. Buono pomeriggio? Insomma, è un periodo un po', cos'è un po' il così, Napoli? Però oggi è Sant'Ambrogio, noi qui a Milano lo festeggiamo. Tu milanese? Io milanese doc lo festeggio in modo particolare. Molto bene. Bisogna fare i conti con questo periodo, Mertens l'ha detto, ogni squadra ha il suo periodo, no? Sì, è vero. Purtroppo è vero. Per il Napoli è arrivato con delle partite chiave. E del resto, insomma, sai, anche questo meccanismo strano che ha portato il Napoli a giocare le partite decisive, la terza e la quarta del girone contro il Manchester City, ha in qualche modo creato le premesse che erano già negative con la sconfitta in Ucraina. Secondo me il punto è un altro, il punto non sono quelle partite con il City, il punto è l'approccio a questa Champions League, con la partita più sbagliata della stagione, proprio contro il Shakhtar Donetsk. Quella sconfitta ha compromesso l'intero girone. Ma continuo a pensare che non fosse, per usare i tuoi termini, caro professore del Sole 24 Ore, il core business del Napoli, l'Europa, la Champions, né l'Europa League che toccherà a Napoli. Il core business è un altro e si gioca sui nostri campi, e lì è il fronte di preoccupazione, perché adesso bisogna correre forte, perché non ci sono soste nemmeno a Natale. Buongiorno Raffaele Auriemma, come stai? Abbastanza bene, buongiorno a te. Buongiorno, c'è qui con me anche Marco Beninazzo. Io vi lascio un incrocio tra anime deluse. Io invece faccio lo stronzo come al solito. Che cosa ha Napoli che non va? Quali sono le colpe di Sarri? Non mi parlare di mancati investimenti, di estratti conto, di budget, di queste cose. Io guardo questo Napoli e da un mese almeno non mi convince. Sì, Napoli da un mese non convince, comunque è una squadra che è stata prima in classifica fino a ieri l'altro, e domenica potrebbe ritrovarsi al primo posto, quindi parliamo di una situazione momentanea nella quale provare a migliorare l'esistente, ma senza drammatizzare quanto visto nell'ultima settimana o nelle ultime due. Sta di fatto che la Champions prima giornata è stato sconfitto dallo Shakhtar per una partita. Aspetta che non ti sento, ti sto perdendo, ti richiamiamo subito Raffaele Auria, ma io voglio capire però quali sono le colpe di Sarri. Attenzione, faccio la telecronaca. Apre in questo momento la porta, spinge la porta grigia, entra maglione blu, camicia azzurra, pantalone che non, del cui colore non vedo bene. Marroncino, eccolo, sta arrivando, è proprio lui. È proprio lui, Pierluigi Pardo, buongiorno. Tranquillo, respira. Tutto a posto, dove siamo? Siamo a Napoli. Che radio è questa? Questa è Radio 24. Ah, sì. Ti presento Raffaele Auriem, è un mio amico. Voi chi siete? Auriem, se ho sentito quello che... Patrimonio dell'UNESCO! Come stai? Come stai, Raffaele? Molto bene. L'UNESCO che adesso raddoppia anche la pizza, quindi... La pizza? Non ho capito. Non ho capito? La pizza è diventata patrimonio dell'UNESCO. Ah beh, certo. Penso, secondo me lo è sempre stata, però vabbè, comunque c'era bisogno. Adesso è ufficiale, allora. Io sto facendo, hai visto che tu eri ottimista, io meno. No, io ho sbagliato tutto. Non è che hai sbagliato, stato giustamente ottimista, ma io ho apprezzato. Pensavo che vincesse. Ah sì, veramente? Cioè, pensavo che facesse una partita diversa da quella che ho fatto, detto questo. Concentrarsi sul City sarebbe autoassolutorio e sbagliato. No, poi per fortuna ha perso, perché tu immaginati se il City avesse vinto in Ucraina, cosa che per me era follia pura, con domenica pomeriggio, derby di Manchester, torno a ripeterlo, fossi stato Guardiola avrei detto ragazzi, il primo che si fa male un dito lo picchio, lo metto fuori rosa, io credo che questo sia un atteggiamento saggio. Però immaginati se il City avesse vinto sul campo dello Shakhtar e il Napoli avesse perso. La teoria di Mario Bartoletti l'altro giorno, l'incubo di Mario Bartoletti. Sì, che allora, ragazzi, spiegatemi, Raffaele Auriemma, Pierluigi Pardo, Marco Bellinazzo, quali sono le colpe di Sarri in questo momento del Napoli? Ce ne sono oppure no? Ma le colpe di Sarri non sono di oggi, scusami Carlo. Le colpe di Sarri, se vogliamo definirle tali, o se vogliamo invece considerarlo come l'ultimo step da percorrere per diventare un grandissimo allenatore, è quello di un utilizzo della rosa a dir poco per nulla consona agli impegni del Napoli. Ci sono degli scarti di minutaggio impressionanti. Tra l'altro lui insiste su questa cosa perché ne ha parlato anche ieri in conferenza stampa. Se Sarri non utilizza tutto l'organico non diventerà mai un allenatore da top club, e certamente Spalletti di Francesco hanno dimostrato di poter fare meglio con delle rose, diciamo, per giù valide come Napoli. Però Raffaele, questo tema adesso, premesso che poi qui sono 3 anni che diciamo che il margine di miglioramento e di crescita ulteriore di Sarri, che rimane un ottimo allenatore che sta facendo grandi cose, però il margine di crescita, lo scalino è proprio questo, una gestione diversa, un po' più sistematica del turnover e qualche alternativa tattica in più. Lo diciamo da anni come un disco rotto. Detto questo, lui qualche trasformazione l'ha avuta nella sua carriera nel Napoli. Sì. Aveva cominciato con il 4-3-1-2. Sì. Però le prime 3 partite, Raffaele. Stiamo parlando sempre di 3 anni fa. Raffaele. Sì, sì. Io dico. Lui è il terzo anno di carriera nel Napoli. No, io credo non deve essere un alibi, però insomma il Napoli in questo momento è senza un titolare e mezzo, quindi è come se, non faccio nomi sennò poi sembra uno porta sfiga, ecco, però sceglieteli voi nelle altre grandi squadre italiane, pensate a un titolarissimo come Goulam e pensate a un attaccante che nasceva titolare, poi non lo è più, ma comunque è la prima alternativa tattica, e questo rimane secondo me come elemento di oggettiva sfiga che il Napoli ha avuto. E poi attenzione, cosa insegna? Sì, saltato la prima partita dopo 60 consecutive. Beh, che è poi, una cosa pazzesca. Insomma, avrete sicuramente visto e letto che Insigne qualche segno di pubalgia o comunque di passivo scuola l'ha avuto. Scusate, con Manchester. Io volevo provare a portare un altro elemento di discussione. Secondo me non è il problema, cioè quel salto a cui fate riferimento giustamente voi, in realtà Sarri non lo farà mai, perché è una questione di approccio filosofico. Il suo approccio filosofico alla preparazione della squadra è puntare alla perfezione, a certi schemi, capito, a certi Marco, uomini. Nel momento in cui lui non si fida minimamente di un giocatore perché non rientra in quella logica lì, in quella perfezione, in quei meccanismi, per lui sono giocatori, come dire, che non gli creano affidabilità, e da qui l'utilizzo ripetuto di schemi che secondo la sua filosofia di gioco servono alla squadra per aggrapparsi. Quindi, a qualcosa, siamo perfetti, o siamo perfetti e stiamo tutti bene o niente. È questo che ci ha raccontato la storia del Napoli in questi 3 anni. Io vorrei il giudizio di Raffaele e vostro sul post partita di ieri, nel senso che che mi sembra che da un lato le affermazioni che abbiamo sentito sull'allenamento favoloso che sarebbe stato, che poteva essere quello di ieri, nell'avere una partita nella quale le motivazioni non erano tantissime, e io quella cosa la condivido molto. Poi so anche di un certo nervosismo invece in... Sentiamo. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. È sfumato ed è sfumato male il primo obiettivo della stagione, perché il passaggio del turno era certamente un obiettivo. Volevo capire cosa dice dopo queste 4 sconfitte, 0 punti in trasferta, a se stesso, alla squadra e anche al presidente De Laurentiis. Prossimo anno risparmiami un po' di telefonate a De Laurentiis, se chiamo direttamente te per gli obiettivi stagionali, o sì. Me li dai prima della stagione, e non fai domande, mister, di cazzo, però la prego di avere una terminologia attinente al fatto che siamo dei professionisti che con rispetto hanno delle idee diverse. Una squadra che l'anno scorso passa il turno di Champions ovviamente ha nella stagione seguente il primo obiettivo della stagione, il passaggio del turno. Lei può negarlo, quindi, ma io non credo. Benfica, perché ha vinto la Champions di 67, la deve vincere anche quest'anno. Ma che sta dicendo? Per credere questa cosa, insomma. No, io sono troppo intelligente per continuare ad ascoltare. Mister, no, credo che non abbia risposto. Mister, però, subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta... Tutti convocati. Allora, ma se siete così bravi ad allenare, ma perché siete a dire cazzate alla radio? Perché siamo molto bravi a fare la radio, cioè, allenare, quindi abbiamo scelto di fare la radio. L'alternativa era allenare, ma chi è che lo dice? Non si firma. È questo. No, signore, ma il motivo è questo. Non si firma. Guarda, siamo stati in dubbio fino all'ultimo se prendere una panchina di Serie A o fare tutti i convocati, ma alla fine. Sì, perché ci offriva una panchina non da Europa League, non da Champions League. Scusate, no, a parte tutto, Raffaele, come l'hai sentito? Insomma, questo... Abbiamo sentito battibecco, giusto per contestualizzare, tra Sarri e i colleghi Enicelli di Canale 21. Esatto, e insomma è chiaro che Sarri è stato messo alle strette, e è chiaro che ha un po' la coda di paglia, almeno a me sembra. Raffaele, ma se noi vogliamo mettere al bando le reazioni di Sarri, avremo tanti episodi da evidenziare. Ieri ce n'è stato uno dei tanti che io non condivido, attenzione, però non per questo vuol dire che la squadra debba avere un rendimento non consono a quelle che sono le sue caratteristiche. La squadra è in calo, soprattutto secondo me non ha quel furore, quel sacro furore agonistico che vedo sprigionare a formazioni come la Juventus, l'Inter e la Roma. Credo che al Napoli oggi manchi soprattutto questo, oltre ad essere in alcuni titolarissimi troppo stressata dal continuo utilizzo. Io non sono d'accordo con Sarri quando fa tutta una serie di ragionamenti sulla necessità di far giocare sempre Messi, perché Messi ti dà comunque un tot di rendimento anche più di quello che potrebbe dargli uno che sta meglio di lui ma che non vale lui. Io non sono d'accordo con questa analisi, e credo che anche lui prima o poi debba cambiare idea, altrimenti non potrà fare quel salto di qualità che qualcuno sostiene non potrà più fare. Io spero posso ancora farlo, e poi a fine stagione tireremo le somme. Però ripeto, è un momento di un Napoli strabiliante che anche voi avete esaltato in questa trasmissione più volte, e tornerete a farlo. Questa squadra necessita di riposare, ha iniziato prima di tutti, ha giocato più di tutti, ha fatto questo preliminare di Champions che è stato snervante perché c'era la necessità di approdare ai gironi. Ora chi fa la Champions sa e perde dei punti, il Napoli li ha persi in questa fase, sperando che poi possa riprendere. Sì, io credo non ne so molto, quindi magari mi sono perso le pezzi, anche se Peppe Iannicelli lo conosco e mi sa anche simpatico, quindi voglio dire, però ecco, non so se ci sono dei pregressi fra Sarri e Iannicelli, perché c'era insomma la sensazione che Sarri abbia considerato la domanda un po' sul personale, perché sì. Altrimenti se parliamo però della domanda ci sta, cioè che la Champions e qualificarsi agli ottavi di Champions League fosse assolutamente un obiettivo del Napoli, ma la domanda è assolutamente legittima, non mi sembra una domanda provocatoria o malposta. Io onestamente pensavo che il Napoli passasse il turno. Allora facciamo un sondaggio: quanti al momento del sorteggio pensavamo? Io pensavo che il Napoli passasse anch'io il turno. Benazzo? C'era Napoli, Juve e Roma fuori, questo era il... condivido, anch'io pensavo questo ma non perché abbia niente contro la Roma, perché mi sembrava abbastanza la logica delle cose. Auriemma, confermi? Allora io pensavo che il Napoli non passasse il turno l'anno scorso, oggettivamente, avendo il tuo girone, il Feyenoord che è un capitolo di una formazione completamente trasformata, ha perso 8 delle ultime 17 partite, quindi la squadra alla porta tutta del Napoli, e lo Shakhtar, nonostante abbia un allenatore che faccia giocare bene sui calciatori, ma era anche quella una formazione, il Napoli poteva battere sia il San Paolo. Tornando al ragionamento che stavo facendo, ci sarà anche una componente, diciamo, umana di scarsa simpatia fra i due. Però la domanda era legittima, questo è chiaro, anche perché adesso ci facciamo dire da Berinazzo quanto costa il primo fallimento della stagione del Napoli. Bisogna essere intellettualmente onesti, non è che quando il Napoli gioca bene lo si dice, poi quando il Napoli esce dalla Champions è un dettaglio. Il Napoli ha fallito in Champions League, ha fallito pure male, perché poi comunque anche la sconfitta di ieri in qualche modo ti porta, oltre a non essere testa di serie in Europa League, ma ad aver fatto 6 punti, e onestamente la squadra fa 6 punti in Champions merita di stare, merita di andare a casa. Ma quello che è più preoccupante, secondo me, è il nervosismo che c'è sotto. Cioè, al di là del fatto che Sarri è un personaggio verace, e ci piace, a me piace anche perché è verace certe volte, no? Perché è un personaggio pane e salame in tuta, che non è che fa il diplomatico. Però, insomma, questo nervosismo mi sembra un po' inquietante per il futuro. Sì, e anche la condizione fisica dei giocatori mi sembra un po' inquietante per il futuro. Io volevo salutare Raffaele Auriemma e ringraziarlo. Ciao Raffaele. Anche perché... Grazie a voi. Ciao, un abbraccio. Ciao, anche perché, insomma, Marco Berinazzo, visto che è un argomento molto sensibile, quanto costa a Napoli questo scherzetto? Calcola 1,5 milioni della mancata vittoria, 6 milioni che sono il mancato passaggio del turno. E aggiungerei, tanto per come dire, fare più felici ancora i tifosi del Napoli, meno 15 milioni di market pool che si divideranno Juve e Roma per la felicità, insomma. Quindi parliamo di tra i 22 e i 25 milioni, dipende poi da quanto strada faranno le altre italiane, ma evidentemente è un danno importante che è frutto di uno stress interno alla società, al rapporto da De Laurentiis e Sarri, perché è evidente che molte mosse di Sarri sembrano fatte in contrapposizione di De Laurentiis e viceversa. Una squadra stressata per quell'approccio filosofico a cui facevo riferimento, e danni, diciamo, anche se vuoi, al parco giocatori, perché ragazzi, un giocatore come Maximovic pagato 25 milioni, di cui ormai si sono perse le tracce, insomma, pare che vada a fare gita sul Vesuvio spesso la domenica perché non lo convoca, o comunque è assolutamente sottoutilizzato, insomma, significa perdere altri soldi. Ha consumato i pantaloni della tuta a forza di stare seduto Maximovic. E non è il solo, pensiamo a Tonelli. Sono tanti giocatori che per sue scelte Sarri non utilizza, e naturalmente De Laurentiis ha un patrimonio che si sta svilendo. E questo, per oltretutto, non per mettere dito nella piaga, al di là degli aspetti economici, per i quali ovviamente Berinazzo ne sa molto più di me, anche un aspetto nella rosa. Perché se mai ti dovesse servire Maximovic, se mai ti dovesse servire Giaccherini, che forse già ti hanno serviti, con che stato d'animo affronteranno questa partita? Esatto. Dopo che hai detto le dichiarazioni non sono abbastanza. Cioè, da questo punto di vista, io qualche dubbio ce l'ho. C'è Fede da Alessandria che ci dice, da Juventino, che il Napoli stravincerà lo scudetto e a maggio vorrà sentire. Ecco, questo è interessante. Le registrazioni di questo periodo. Ma io non penso che il Napoli sia fuori dalla lotta scudetto. Assolutamente non lo è. Però quello che ti voglio dire, a differenza dell'anno passato, il passaggio del turno in Champions League, che era fondamentale, quest'anno in fondo estremizziamo un po', ma l'Europa per il Napoli non è poi così importante. Strategicamente, Pierluigi, ma che vuol dire strategicamente? Ha perso soldi, va bene, ma comunque un momento di nervosismo. A febbraio gioca 4 partite invece che 2, se questo è un vantaggio, allora veramente ha ragione Spalletti, dice, allora non le fate le coppe, perché problema, è meglio così. Ripeto, è che se devi gestire la rosa, non è solo una questione di turnover. Per esempio, un allenatore come Allegri, come il suo Spalletti, che cambiano schemi e utilizzano i giocatori in funzione della rosa, hanno un approccio filosofico diverso. Ma se vogliamo restare a Guardiola, è uno che ha un atteggiamento filosofico come Sarri, che punta alla perfezione, però ha cambiato schemi, li ruota. No, no, ma questo pare, secondo me è indiscutibile. Ripeto, poi secondo me, anche vista la differenza che c'è fra grandi e piccole, il Napoli è posizionato comunque bene in classifica. Se riesce a resistere, secondo me, se riesce a far passare le prossime 4-5 settimane, poi io vedo veramente una volata a 3-4, insomma, perché poi comunque secondo me le distanze sono talmente tante quest'anno che la differenza la fanno gli scontri diretti, veramente rischia di essere così. Quindi io non escludo che il Napoli rimanga lì attaccata, aggrappata, e magari tornerà a correre, a volare come è successo l'anno scorso proprio in primavera. Però questo è un fallimento, insomma, le cose vanno chiamate, perché no, sennò veramente sicuro. Diventa... Non si può dire che è andata bene, 6 punti no, e, guarda, no, e sei eliminato per l'Europa League, che comunque è vero, inciderà. Tra l'altro, se guardiamo il discorso del turnover, il turnover è stato, no, ne fa poco, ed è stato sbagliato nella partita poi decisiva, perché quel Mertens in panchina nel momento migliore, esatto, di Mertens, esatto, nella prima, esatto, partita, prima partita che partita sembrava Adonis, cioè, onestamente una partita così, diciamo, introduttiva al girone, ma poi sarà quella la partita che ha fatto è la stata differenza. Quella la partita chiave, ma l'abbiamo con questo penso sia, io credo anche che si sia esaurendo, chi, non so, mi ricordo chi parlava prima del furore, no? Agonistico. Beh, e questa condizione psicologica che è la ma squadra, ma anche fisica, ma sembra un Napoli stanco, mi sembra un Napoli stanco da un mese a questa parte, continua a ripetere, ma fisicamente stanco. È chiaro che se sei fisicamente stanco anche il furore rimane. Ci dicono, il giornalista ha fatto domanda inutile perché tutti sanno che il Napoli non aveva obiettivo Champions ma lo scudetto. Allora se parte che mi sembra assurdo, ma voglio dire, se è questo il discorso, allora doveva puntare al quarto posto. Lo dico sinceramente, cioè, a fare se questa è l'idea, allora l'Europa League è la cosa peggiore che ti possa capitare, perché hai un turno in più. Cioè. Intanto c'è chi l'Europa League l'anno prossimo, a quanto pare, non la farà nemmeno in caso di remota di qualificazione. Credo, non so. Adesso ci facciamo illustrare tutto, però il Milan, altro argomento di giornata. Adesso lo introduciamo con l'Europa League, può farla. Sì, no, sto estremizzando. Sì, in ogni caso ha qualche problemino. C'è Fassone che ieri ha parlato di questi, che oggi ha parlato di questi problemi, oggi all'Assemblea della Lega, poi parleremo anche di questo. Ha parlato di questi problemi che l'UEFA ha evidenziato ancor prima della comunicazione ufficiale ed è comparsa sui giornali. Sentiamo una prima battuta di Fassone. Aprire il giornale o leggere la rassegna, adesso l'ho letta sommariamente, non ho letto tutto, dove c'è già un funerale anticipato, la commissione della UEFA si riunisce domani e oggi dai giornali sembra praticamente accertata che ci sia già stata o sia già stata presa una decisione negativa nei confronti del Milan. Ovviamente non fa piacere, ho troppo rispetto per la commissione, per l'istituzione UEFA, per comprendere queste indiscrezioni, queste notizie che filtrano, come possono avere portato ad anticipare di un giorno una decisione. Spero che non sia così, ripeto, grandissima stima del presidente Leterme, che è l'ex primo ministro del Consiglio belga, per auspicare che le decisioni, se saranno prese domani o nei prossimi giorni, siano decisioni eticamente neutre nei confronti del Milan. Allora, nuovo voluntary agreement, non mi viene, mi sono intorcinato la lingua. Comunque, no, voluntary agreement, dice la UEFA al Milan. Questa notizia, appunto, Fassone si è anche risentito perché è filtrata prima sui giornali che dai bollettini, dalle veline ufficiali. Però il senso è questo, quindi non sono state date, Marco, all'UEFA le garanzie necessarie per consentire di azionare la multa, facciamo dice così. Dice che appunto la decisione non è stata ancora presa, però allo stesso tempo dice che dalla UEFA sono arrivate, non so se ce l'abbiamo questo passaggio, che secondo me è fondamentale, sì, ce l'abbiamo, poi lo ascoltiamo, in cui si dice sono arrivate richieste oggettivamente impossibili da rispettare. Ecco, questo mi interessa, oggettivamente impossibili da rispettare, cosa che vuol dire? Che cosa gli hanno chiesto? Ce l'abbiamo quella brano, sentiamolo. Sono state fatte delle richieste al Milan recentemente da parte della commissione, che sono richieste oggettivamente impossibili da accontentare da parte non soltanto del Milan ma da parte di qualsiasi club. Il Milan ha fornito alla UEFA una documentazione che io reputo completissima, ancora negli ultimi giorni abbiamo integrato ulteriormente quanto abbiamo già mandato. Spero e auspico che la decisione della UEFA sia una decisione presa nel rispetto di quello che è il primo, sarebbe o potrebbe essere il primo voluntary agreement. È ovvio che bisogna essere in due per poter fare un accordo, il Milan ha dimostrato tutta la flessibilità per poterlo fare, mi auguro che ci sia anche da parte della UEFA. Invece da parte dei parrucconi della UEFA a quanto pare questo non c'è, e ciò fa arrabbiare Fassone, credo tutti i milanisti, e il futuro è più nebuloso che mai. Ne parliamo subito dopo la borsa. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Allora, qui la platea nutrita, Pierluigi Pardo qui con me e Marco Bellinazzo qui con me oggi in studio, mancate solo voi, 800240024, sta discutendo di vari argomenti, tantissimi sono argomenti, purtroppo il tempo netto a nostra disposizione non è molto, ma eravamo sul Milan, Marco sulle Bellinazzo. Richieste impossibili, Fassone ha parlato di richieste impossibili da parte dell'UEFA, ostative al voluntary agreement. Allora, Fassone ha ragione in un certo senso, perché la UEFA dovrebbe occuparsi di cosa? Del piano, del business plan, cioè Milan arriva e dice: signori, non riesco a stare nei paletti, però vi assicuro che da qui a 3 anni incasserò miliardi di miliardi, per intenderci, e quindi rientrerò nei parametri. E la UEFA ti può dire: va bene, ci piace, non ci piace, ci convince, non ci convince. Altra cosa è la questione della proprietà. Ora, l'ok della UEFA, questo voluntary agreement, avrebbe dovuto normalmente prescindere dalla proprietà, perché tu l'accordo lo fai, ecco, con il club, non con la proprietà. Quindi se cambia la proprietà, la UEFA, per la UEFA dovrebbe essere un discorso molto molto marginale di norma. Ecco, ma nel caso specifico invece, appunto, andiamo sull'interpretazione della norma. Per allora, usare sulla parte, cioè, la sensazione è che va bene il piano, però su quel piano poteva essere scritto qualunque cosa. La verità, il senso è che, interpretando, l'UEFA non si fida fino in fondo della UEFA, solidità della proprietà del Milan. Quando hanno fatto l'incontro, sulle 30 domande fatte, circa 30 domande, quasi la metà sono state rivolte in relazione a chi è Lin Yo-Yo, che patrimonio ha, che garanzie può dare sulla appunto continuità aziendale del club. E le richieste impossibili, molto probabilmente, a cui ha fatto riferimento Fassone, sono proprio richieste relative alla certificazione di questa solidità finanziaria, che non c'è stata. Il New York Times ha scritto che le miniere di fosforo non sono di Li Yong, c'è il problema del rifinanziamento, quindi non si sa effettivamente chi potrà rifinanziare il debito di 303 milioni di fondo Elliott, che ha in mano, che ha impegno il Milan, perché se non si arriva al pagamento, Elliott che fa? Si prende il Milan, deve avere circa 350 milioni tra il credito e gli interessi, mette il Milan sul mercato e trova un acquirente a 450 milioni, 500, a quel punto Milan ci vale, rientra del suo prestito, ci guadagna Elliott, e a quel punto il Milan avrà un altro è uno scenario possibile in questo momento, secondo te? Questo è lo scenario più probabile, anche perché, diciamo, il Milan doveva ottenere il volume, Milan doveva essere a questo punto, secondo i piani, secondo o terzo in classifica, quindi con ottime possibilità di avere accesso alla Champions l'anno prossimo, doveva avere il voluntary dalla UEFA e doveva poi rifinanziare il debito trovando qualcuno che allungasse a 4-5 anni questo periodo. Ora, i primi due piani in qualche modo stanno fallendo, bisognerà capire se si trova un rifinanziatore oppure quello scenario che ho fatto prima è quello più probabile. Sì, io faccio un ragionamento sempre da bar dell'angolo per Luigi, provo a seguirmi. Sì. Allora, se il Milan finisce a Elliott, forse per il Milan stesso, per i tifosi del Milan, forse è una garanzia un po' più solida, no? Bellinazzo, che dici? Beh, così. È evidente che qui si è creato, diciamo, un vulnus nel sistema, per cui un soggetto che non ha tutte le credenziali patrimoniali, che non lo ha evidentemente per la UEFA, è riuscito a prendere il secondo brand calcistico del paese. Immaginate se fosse andato a comprarsi Barcellona o non so, il Chelsea. Ripeti ai nostri ascoltatori, no, sto sentendo di fare in frasca, però è interessante. Quanto stavamo parlando di premi della Champions sul passaggio del turno, ricordami un po' le inglesi quanto hanno beccato. Beh, a sto giro? Credo che solo per premi, diciamo, legati ai risultati, ai passaggi dei turni, siamo oltre 110 milioni, anche perché c'erano 5 squadre, ma hanno vinto tantissime partite. Il Tottenham ha fatto l'Amplein, quindi c'è 1,5 milioni per ogni vittoria. No, fra l'altro questo è un dato interessante anche dal punto di vista tecnico, perché quanti anni fa c'è stato il primo contratto monstro della Premier League? 3 anni fa? 4 anni fa? La primavera, monstro, come TV, anche 6 anni fa. Anche 6 anni fa. Però quello da quel momento in poi c'era stata una strana dicotomia fra la quantità di soldi che la Premier League incassava e i risultati sportivi a livello europeo, nel senso che poi le inglesi non è che siano andate molto bene gli ultimi assolutamente anni. No, è la prima volta che le inglesi, forti anche di questo, del fatto che Manchester United avesse vinto l'Europa League e quindi avevano 5 squadre e hanno ancora 5 squadre, stanno dominando, quindi può essere l'inizio tecnicamente di una nuova fase. E vogliamo aggiungere un'altra cosa: chi sta vincendo a livello giovanile tutti i mondiali? l'Inghilterra. Sì, che storicamente come nazionale che storicamente non lo era, con tanti stranieri. A questo punto possiamo partire col brano di Dylan Skinner, Freelance on a Shake, Jules remains declaiming for this award. Bellissimi, ascolterei Pardo per ore. Can't stop my dreaming. Per concludere sul Milan, perché ora ormai i tifosi vogliono capire, arriva il no al Voluntari, che succede? Il Milan fuori dalle coppe? No. Nel senso che, come tutte le altre squadre, il Milan in primavera sarà sottoposto al settlement agreement, che è un'altra cosa, è una cosa non preventiva, ma appunto che arriva nel momento in cui si vanno a valutare il bilancio. Gli ultimi tre anni il bilancio ha fatto meno 250, limite 30, capite che tanto... Ma sì, ma tanto non ti preoccupare, allora, Milan in Coppa non ci arriva, guarda dove sono messi. Beh, ma non succede sul niente. Sul Napoli perché... sono in tanti a dire che è un fallimento voluto e calcolato per puntare sullo scudetto. Beh, sai, psicologicamente ci può stare, vediamo. Sia voluto e calcolato. Sicuramente il Napoli non è fuori dai giochi, il calcio è liquido e sicuramente questi sono giorni caldi e non positivi per il Napoli, ma insomma ci sono tutte le possibilità tecniche, secondo me, soprattutto quasi a gennaio si dovessero beccare gli acquisti giusti. No, ma io comunque non ti dico che condivido in toto quell'idea, però io continuo a pensare che l'idea del Napoli quest'anno debba essere focalizzata sul fronte interno, perché davvero può vincere lo scudetto, a maggior ragione, a rafforzare quanto dici tu, col cavolo che è fuori dai giochi. Quindi ci si deve concentrare lì, perché mai come quest'anno è uno scudetto da assegnare, vacante, non ha un padrone, nemmeno la Juventus. Ciro Monza, buongiorno. Ciao ragazzi, grazie per la convocazione. Sempre un piacere sentire Pardo che canta. Adesso va giocato, che pezzo vuoi, Ciro? Mi dispiace che lo interrompo. No, no, ma metti pure la monetina nel jukebox, dacci un tema e noi risolviamo. Tutto il Britpop inglese. Britpop inglese è ferratissimo. Sì, è mio cavallo di battaglia. Comunque dai paraculati a allenatori mancati, secondo me il passo è grandioso. Esatto. La settimana che mi fa male. Volevo soltanto dirvi questo, che Sarri avrà i suoi diritti. Per carità, è un ottimo allenatore, però la questione è la società dov'è, nel senso che questi rinforzi, questa rosa che secondo me è molto stretta a Napoli, deve essere in qualche modo rinforzata. Il nome Ciro presume, esatto, l'origine campana. Ci avevo pensato, infatti Ciro da Monza faceva un po'. Sono avellinese, ma juventino, quindi... secondo me Napoli non ha Ottavio Bianchi per vincere uno scudetto, e una delle ultime volte che l'hai vedevo in trasmissione ha detto che lui era quello che decideva tutto, e Sarri secondo me non è questo. Sì, non volendo, il signor Diego Armando non ce l'ha Sarri. No, volendo, io penso una cosa, così, che io non sono molto d'accordo sul fatto che la rosa sia corta. Secondo me è stato fatto un errore lì davanti, anche se mancavano ovviamente, poi dopo siamo bravi tutti, nessuno poteva immaginare Milik si sarebbe rifatto male, anche se i giocatori si sono fatti male, sai che hanno sempre comunque, guarda, io storicamente un po' di fragilità in più. Sostengo un po' provocatoriamente che il Napoli potrebbe perdere lo scudetto per 18 milioni, che sono quanto è stato incassato per la cessione di Strinic e Zapata, al di là del fatto che non volessero restare con il mondiale, ma una società forte li fa restare, almeno fino a gennaio, perché c'erano due infortuni, Mario Rui e Milik, due crociati, sì. Un ortopedico, diciamo, basic, ti può dire che ci sono questi rischi. Sì, volendo Strinic potevi anche, diciamo, non comprare Mario Rui. Esattamente, volendo, no? Esattamente. E quindi, diciamo, se si fa male Icardi, no, male, se viene il raffreddore ai Icardi, l'Inter chi ha come backup? Beh, è evidente, però il Napoli aveva lo scudetto e la Champions da fare, l'Inter aveva soltanto il campionato quest'anno. Quindi sì, diciamo, si può accettare che la rosa abbia delle imperfezioni. Anche perché il Napoli ha perso due giocatori importanti, ma non ha perso Mertens. Esatto, cioè, ha perso alla Gurams, è un giocatore importantissimo, anche un po' sottovalutato, e ci si accorge adesso che non c'è. Però ha perso, l'ho detto io prima, due titolari, un titolare e mezzo, però è anche vero che non ha perso Icardi, per capirci, cioè, non ha perso Nainggolan, se faccio dei nomi, non ha perso Dybala, ha perso un grande giocatore ovviamente come Gulam, è un giocatore importantissimo, secondo me su Duván Zapata soprattutto, o comunque su una punta centrale di backup ci si poteva, sono le cose che abbiamo detto il primo settembre, il Napoli è rimasto un po' corto davanti. Poi poteva essere inglese che veniva prima, sì, Duván Zapata che non veniva, cioè, semplicemente, ma non semplicemente abbiamo Juve-Inter, Biasine, che succede? Sì, no, aspetta, borsa. No, che borsa? Traffica, quest'ora traffica. È traffica, ciaffica e poi torniamo. una puntata davvero eccitante. Piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Tutti convocati. Sì. Ma io non sono Pirla. Che posizione ero stato messo? Quanti ce n'erano davanti? Secondo me ce n'erano di più di quelli che pensa lei. A me non me ne frega niente. Io sono l'allenatore dell'Inter e vi faccio vedere che ci sto comodo in questa posizione, ci sto bello rilassato e si fanno quelle cose che dobbiamo fare. A me non mi piace prostituzione intellettuale, mi piace onestà intellettuale. Mi sembra che in questo momento, negli ultimi giorni, grandissima manipolazione intellettuale, ma grandissima, grandissima manipolazione intellettuale, grandissimo lavoro organizzato di cambiare, di manipolare l'opinione pubblica, e questo secondo me è un lavoro fantastico. Sì, si vince lo scudetto, noi vinciamo lo scudetto e sarà così, vi faremo vedere che sarà così. Allora ragazzi, accettate la suggestione, Pierluigi Pardo, Marco Pignazzo, ma Fabrizio Biasin, responsabile delle pagine sportive di Libero, che ci ha raggiunti. Vi piace questa suggestione? Ovviamente sono battute d'archivio, di repertorio, però mettono vicine Mourinho e Spalletti. Ti piace, Pardo? Ma ci sono dei comportamenti dei calciatori. Non mi devono piacere a me. Devono piacere a João Mario. Devono piacere a Gagliardini. No, niente. Ci sto lavorando, ma siamo ancora lontani. Anzi, lo saluto il mister. Se ci vediamo due minuti, mi fa una. Perché poi non c'è modo migliore che parlarci dopo. Luciano, chiamaci per favore. Va bene, chiamaci. Insomma, l'Inter sappiamo ha una tifoseria, secondo me, ancora orfana. Forse adesso si sta per la prima volta innamorando il lutto di Mourinho, perché Mourinho comunque ha una personalità forte a 360 gradi e poi Mourinho ha vinto il triplete, per cui di che ragazzi, stiamo parlando? I tituli contano, Fabrizio. Intanto buon pomeriggio a voi a lei. Tutti. Ma io sono molto d'accordo, cioè la similitudine, il paragone ci sta tutto, ma perché? Perché è avallato dai risultati. Se Spalletti dicesse le stesse cose in assenza di vittorie e risultati, lo prenderemmo per un pazzo e lo attaccheremmo. Quindi sì, ci sono delle similitudini legate alla comunicazione, ma soprattutto ci sono similitudini legate a quello che stiamo vedendo sul campo. Questo è certo, comunque insomma è chiaro che puoi parlare così e vieni ascoltato, diventi un capopopolo, se vinci, se no ti pigliano a fischia pernacchie, questa è la storia. Però come risultati, quello ha vinto, questo deve ancora vincere, però... Ma la sensazione è che la gente interista avesse voglia di innamorarsi ancora, no, Piero? Sicuro, ma chiunque ha voglia di innamorarsi ancora. E poi Spalletti, queste caratteristiche qua, cioè una predisposizione a essere qualcosa di più che un allenatore di campo, ma anche un capopopolo, uno a cui piace la battuta, piace la polemica. Insomma, poi gli anni di Roma sono stati abbastanza ricchi da questo punto di vista. Ma secondo me, poi di fondo gli piace questo tipo di clima. Una persona. Sì, a me, tra l'altro, piace di più, diciamo, lo Spalletti gigioneggiante rispetto al Mourinho un po'. No? E tu hai detto gigioneggiante? Perché hai detto gigioneggiante? E si deve lavorare, però. Ci hai sei molto grigio vicino sugli occhi, perché c'hai l'elefante sugli occhi. Tra l'altro, diciamo la verità, lui quando è arrivato a Milano è arrivato anche con l'immagine di quello che invece a Roma un certo tipo di situazioni non sapeva gestirle al 100%, e invece devo dire che fino adesso non ha sbagliato un colpo. Sì, ma lui è tornato, allora, che sia un grande allenatore, punto di partenza è quello, ma credo che chiunque, no? Anche questa chi, è quasi una banalità. Chi non ha, esatto. Poi sai, bisogna vedere sempre di che livello parliamo, perché comunque io pensavo fosse un grande allenatore, ma non mi aspettavo che partisse così. Cioè, secondo me, poi la vita è un continuo esame, ecco, gli esami non finiscono mai, come ci insegna Beninazzo, e quindi quello che sta facendo è veramente qualcosa di clamoroso e di enorme. E secondo, poi ne abbiamo parlato spesso, insomma, la sensazione a un certo punto è che a Roma quasi cercasse lui lo scontro, perché evidentemente aveva chiuso, cercasse lui il pretesto quasi perché, per venire perché via, perché sennò non si spiega. Ripeto, la partita con Totti era stata chiusa, bene o male che fosse, ma era stata chiusa, perché Totti stava lì tranquillo, buono, in panchina a fare il simbolo, la leggenda, amato da tutti. E non protestava più l'anno scorso. Era più una diatriba che ormai era rimasta a livello di tifoserie. Probabilmente poi ha portato anche a quello che è stato un addio non bellissimo, con qualche fischio. Ma io credo che anche i tifosi della Roma riconoscano a Spalletti il fatto di essere veramente bravo. Ti dico, neanche perché la Roma, quando l'anno scorso si gioca e poi in una settimana butta via l'Europa League, perde. Dopo quel famoso Inter-Roma che sembrava proprio il Big Bang definitivo, poi la Roma in 10 giorni butta via un po' tutto e poi però riesce comunque a conservare il secondo posto. Ma in quella parte della stagione non c'era un fischio per Spalletti, cioè la questione Spalletti-Totti era stata risolta. Poi è ovvio che negli ultimi 3 mesi, con tutta una serie di uscite, Spalletti ha probabilmente voluto non voglio dire volontariamente, non credo volontariamente, però di fuga, tante volte che eravamo qua a dire non capiamo perché, esatto, perché un allenatore così bravo, che sta facendo così bene, che la sua partita tecnica l'ha vinta, la voglia comunque riaprire. Detto questo, abbiamo ricominciato da capo, ha ricominciato alla grande, adesso però sabato come la vedi questo? Io ricomincerei da capo, amichevole? Ma ho l'orologio che è una scura per me. Come la vedi sabato? Come la vedi sabato, Fabrizio, per chiudere? Una partita normale, tranquilla, sembra che non ci sia grande tensione. No, guarda, mi ha fatto, diciamo, un po' specie l'atteggiamento a livello di comunicazione di Spalletti, perché non si è veramente nascosto. Io credo che sia un modo per caricare ancora di più i suoi giocatori. Cioè, i giocatori dell'Inter per la prima volta dopo tanti anni devono essere consapevoli che vanno a giocare la partita a Torino, magari non da favoriti, anzi sicuramente non da favoriti, ma con la possibilità di giocarsela, non più come capitava fino a 2 anni fa, quando andavi là ti facevi il segno della croce. Ti facevi il segno della croce. Grazie Fabrizio. Grazie a tutti ragazzi. Ciao. Ma torniamo domani, tranquilli. Torniamo. Io, Spalletti e Marco Bellinazzo. No, Spalletti, Pardo, giusto? Ma questo lo dite voi, perché poi negli sviluppi quei giocatori, quei loro comportamenti. Calciatori, non dice giocatori. Tacco, punta, tacco, punta. Salviamo, ciao. Mister. Ciao, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!